Italia in controluce. Buongiorno, buon pomeriggio da Daniele Biacchesi, questa Italia in controluce, il programma di Radio 24 e della redazione che parla di cronaca italiana. Sono due edizioni quotidiane, oggi è la seconda. Questa è la storia di Nino Agostino, un poliziotto della squadra mobile di Palermo ucciso dalla mafia. Si tratta però di un omicidio che nasconde ombre, coperture istituzionali e che, nonostante il tempo, non si sono ancora svelate. Il racconto di Sabrina Pisu. Il 5 agosto del 1989 alle 17:30, l'orrore io l'ho visto in casa mia. Ho visto mio figlio a terra, che io lo adagiai piano piano, ho visto come entravano nel corpo di mio figlio quel maledetto proiettile. Ho visto la strage di casa mia, ho visto e non lo posso mai dimenticare. Sotto gli occhi di Vincenzo Agostino, due sicari in motocicletta uccidono suo figlio Nino, poliziotto della squadra volanti del commissariato San Lorenzo di Palermo. Io ero orgoglioso che mio figlio indossava la divisa dello Stato, orgoglioso. Mio figlio perché ha fatto un giuramento di servire fedelmente lo Stato. Non c'è più per questo, perché all'interno dello Stato c'erano persone corrotte. Insieme a Nino viene ammazzata sua moglie, Ida Castellucci, che aspettava un figlio da 5 mesi. Da quel 5 agosto le domande di Vincenzo Agostino non hanno una risposta. Per questo non ha più tagliato la barba e i capelli. Gli appunti, l'agenda di mio figlio. Dove sono andato a finire? Mio figlio mi diceva, se mi succede qualcosa, guardate dentro il mio armadio. Dove sono andato a finire? La perquisizione di mio figlio, che hanno fatto all'istante. A chi l'hanno consegnata? Chi erano quelle persone che sono andate a casa di mio figlio? Ancora non ho una risposta, non ho ancora un colpevole, perché hanno fatto scomparire le carte. È una cosa che mi tortura istante dopo istante. Per questo io ho la barba lunga, i capelli, non posso dimenticare quel giorno. Una lunga vicenda giudiziaria segnata da un immediato depistaggio e dalla scomparsa degli appunti dell'agente, spiega Salvo Palazzolo, giornalista di Repubblica. La pista che la squadra mobile segue sin dall'inizio è quella passionale. Sin dall'inizio evidentemente scatta il depistaggio su questo caso. Il mistero del caso Agostino resta nella perquisizione di quella notte. Chi ha quegli appunti di Agostino è sicuramente qualcuno uno con un distintivo in tasca, non sappiamo se appartenente alla polizia o al SISD. A cercare di far luce sull'assassinio è Antonino Di Matteo, PM della Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, titolare dell'inchiesta. Stiamo seguendo le piste che portano al fatto che Antonino Agostino fosse venuto a conoscenza di qualcosa di particolare in merito a fatti di mafia importanti, in merito alla latitanza di mafiosi importanti. Questo lo desumiamo da tanti elementi, non ultimo quello che ci è stato testimoniato fin da sempre dai familiari di Antonino Agostino, circa un improvviso mutamento dell'umore, delle abitudini di Antonino Agostino nell'ultimo periodo di vita. Improvvisamente mostrava evidenti preoccupazioni, si confidava con familiari e colleghi dicendo di avere paura, ma non spiegando probabilmente a nessuno i motivi del suo timore. Sui misteri del 1989 e sul coinvolgimento di apparati deviati dei servizi segreti, i magistrati siciliani indagano da tempo. Secondo il PM Di Matteo, la vicenda di Agostino presenta analogie con quella di un altro poliziotto, Emanuele Piazza, che collaborava con il SISD nella ricerca dei latitanti. Fu strangolato dalla mafia il 15 marzo del 1990. È possibile che servizi segreti, la polizia o settori dei servizi della polizia in un determinato periodo storico abbiano imprudentemente e superficialmente utilizzato dei giovani poliziotti per lavori più grandi e più difficili di quello che in quel momento poteva essere affrontato da quei soggetti. Addirittura per quanto riguarda Emanuele Piazza, sono le causali, i moventi dell'omicidio che sono consacrati anche in sentenze passate in giudicato. Addirittura il SISD aveva fornito al giovane aspirante collaboratore dei servizi Emanuele Piazza, un elenco di latitanti che andavano da Riina a Provenzano con un preziario dei compensi eventualmente stabiliti per il Piazza, se il Piazza avesse portato notizie utili alla cattura. Dopo 22 anni, quello di Nino resta un omicidio impunito su cui pesa il silenzio. Tecnicamente non è stato mai a posto il segreto di Stato. Le dirò però che ci stiamo scontrando con una serie di sempre più evidenti reticenze, purtroppo anche da parte di soggetti che hanno ricoperto incarichi pubblici, incarichi istituzionali all'interno dei servizi, delle forze di polizia, per cui l'invito che più volte abbiamo fatto e che mi sento di fare ancora è che bisognerebbe avere il coraggio di parlare. Certamente qualcuno anche all'interno delle istituzioni sa perché è stato ucciso Antonino Agostino. Qualcuno dovrebbe avere quel minimo senso istituzionale per farsi avanti e per raccontare la verità. Purtroppo certe volte il silenzio, la reticenza, il muro di gomma attorno a determinate vicende scottanti è forse peggiore del segreto di Stato. Far venire fuori la verità, anche se queste verità fossero scomode per settori dello Stato. Uno Stato serio, uno Stato che vuole essere credibile, non deve avere paura, anche eventualmente, a processare pezzi di se stesso. Una verità che la famiglia non smetterà mai di cercare, dice Flora, che ha visto suo fratello per l'ultima volta il giorno del suo 18° compleanno. Era venuto per festeggiare il mio compleanno e mio fratello mi è morto fra le braccia. La verità è che purtroppo ancora tarda ad arrivare, cioè i miei genitori sono stanchi, mai si fermeranno, tant'è che mia madre dice se un domani morirò e ancora non si saprà la verità, dobbiamo scrivere sulla sua bara, qui giace Schiera Augusta, donna ancora in attesa di verità e giustizia oltre all'aldilà, perché dice tu non ti devi mai fermare a chiedere giustizia. Un testimone sopravvissuto alla strage di Piazza Fontana, 12 dicembre 1969, la madre di tutte le stragi, è stato risarcito dallo Stato, pensate, 42 anni dopo e 7 processi. Una storia incredibile, la racconta Andrea Ferro. 42 anni fa, all'alba di una stagione, di una strategia, Tritolo e morti. Piazza Fontana, 1969, e tutto non fu più come prima. Quel giorno Roberto Antonucci Prina aveva 29 anni e lavorava alla Banca Nazionale dell'Agricoltura. Io ero impiegato al servizio estero, la banca all'interno è fatta a emiciclo, c'è questo ammezzato tutto circondato da vetri che dava direttamente sul salone. Ecco, il mio posto di lavoro, la mia scrivania, era proprio in faccia alla vetrata che dava sul salone. Il 12 dicembre è un giorno di mercato, la notte prima ha piovuto, il tempo è incerto. Era venerdì, eravamo sotto Natale, per cui con tutto questo bel clima natalizio, con profumo di castagne, zampogne, insomma ci si preparava al Natale, ecco, ed era il fine settimana, per cui si era anche tutti pronti poi a farsi questo bellissimo weekend, insomma, quando è successo quello che è successo. Alle 16.37 un boato rimbomba nel grande salone col tetto a cupola e squarcia il tempo. È stata una cosa devastante perché, se puoi immaginare, c'erano 7,5 kg di tritolo che era posto proprio all'interno del salone, sotto quei tavoli dove ci sono i moduli che normalmente i clienti... c'è stata l'esplosione che ha buttato praticamente a fungo tutto quello che c'era sopra. Io sono stato investito completamente da tutto ciò che poteva salire e sono stato anche sbalzato per diversi metri, rimanendo ferito, non in maniera grave, ma ho riportato delle ferite al viso perché tutte queste schegge di ferro, di legno, di vetro. Zarsi, immerso in una nuvola di polvere, precipitato in un gorgo di terrore e smarrimento. E mi sono risollevato, lì c'era il caos, c'era la gente che scappava, rideva, piangeva, c'era di tutto. Pur essendo ferito e non avendo sentito nulla, io non trovavo più il mio collega di lavoro e pensavo che fosse volato giù. Per cui quello che ho fatto, mi sono precipitato, sebbene ferito, nel salone E lì mi sono ritrovato in mezzo a quello che lei si può immaginare, in mezzo a una enormità di corpi smembrati, di lamenti, di grida, c'era di tutto, c'era. E poi sono arrivati subito i mezzi di soccorso. Credo che io sono stato sollevato di peso da un pompiere che mi ha caricato su un'auto di passaggio e mi hanno portato all'ospedale. Il sibilo isterico delle ambulanze spazza in un attimo l'atmosfera natalizia di una città al tramonto del boom. Le prime voci confuse parlano di una caldaia esplosa, ma il salone è impregnato di un odore inconfondibile. L'odore dell'esplosivo è questo odore di mandorla schifoso, mescolato all'odore del sangue, che poi è stato un po' il mio problema negli anni. 17 morti, 88 feriti e per i sopravvissuti inizia un'altra vita. Si cambia, si è diversi, ci si crea una corazza, si diventa anaffettivi. Io da allora sono sempre stato vigile, come se nella mia vita da un momento all'altro potesse ancora succedere qualche cosa di questo tipo. Una situazione che poi è andata aggravandosi negli anni, soprattutto negli anni 90, c'è stato un forte rigurgito che poi la caratteristica della sindrome post-traumatica. Italia in Controluce è la seconda edizione, cercateci su Facebook, Twitter, comunicate con noi, controluceradio24.it. Torniamo domani 6:30 con nuove storie su Radio 24.